America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Filadelfia. Mario Platero riprende la corsa elettorale americana, questa volta con la convention democratica, che parte, come avrete sentito dalle notizie, direi non sotto il miglior segno per Hillary Clinton. Sentiamo. A major earthquake is hitting the top leadership of the Democratic Party just a matter of hours before the national convention opens. La notizia negativa è che c'è stato un grande terremoto nel Partito Democratico. Debbie Wasserman Schultz, presidente del partito, ha dato le dimissioni. Ha dato le dimissioni perché è esploso uno scandalo, un altro scandalo di email. Devo dire, la povera Hillary Clinton è perseguitata da queste email. Non è lo stesso scandalo dell'email gate, cioè delle email che aveva mandato dal Dipartimento di Stato usando un server privato. No, queste sono delle email che sono state in qualche modo rubate, tra virgolette, da WikiLeaks. WikiLeaks le ha distribuite e queste email rivelano che c'era una fortissima preferenza da parte della leadership democratica del partito, e cioè da parte di Debbie Wasserman Schultz, per Hillary contro Bernie Sanders. Si è cercato di far di tutto per danneggiarlo, c'era una chiara preferenza. Ecco, questo naturalmente non si può fare, non è il modo in cui una corsa per le primarie trasparente deve avvenire, e la cosa è esplosa nella giornata di ieri, proprio prima dell'apertura che sarà questa sera. Tra l'altro Bernie Sanders parlerà questa sera. Non sappiamo a questo punto quello che succede, nel senso che Bernie Sanders ha già dato il suo appoggio a Hillary Clinton. Bernie Sanders aveva detto che avrebbe fatto un appello per l'unità, avrebbe cercato di mobilitare la sua base politica per cercare di sconfiggere il nemico comune Donald Trump. Il Partito Democratico doveva dare una dimostrazione di forte unità dopo i disastri che ha avuto il Partito Repubblicano alla convention di Cleveland. A questo punto i problemi ci sono anche in casa democratica. C'è stata una buona notizia ieri per Hillary, purtroppo è stata annacquata dallo scandalo. Sentiamo. I think she would be a spectacular candidate on the Democratic side. E Mike Bloomberg che parla, Mike Bloomberg ex sindaco di New York, uomo d'affari newyorkese, ma uomo d'affari 10 volte più importante di Donald Trump, un uomo che ha davvero cambiato il mondo con la sua rivoluzione mediatica, un uomo che vale oltre 40 miliardi di dollari, che avrebbe potuto correre per la presidenza, ma poi ha deciso di fare un passo indietro. Bloomberg è sempre stato un po' a cavallo dei due partiti, perché è conservatore dal punto di vista fiscale, però è molto aperto, da tipico newyorkese, nelle politiche sociali, e dunque, pur essendo, diciamo, nella sua natura un repubblicano moderato, ha deciso di schierarsi con Hillary Clinton. Lo farà in un discorso mercoledì notte. Poi ci sarà anche Barack Obama che parlerà per Hillary Clinton. Quindi il Partito Democratico, o comunque Hillary, era pronta a schierare degli oratori molto più importanti, molto più significativi di quelli che è riuscito a portare Donald Trump. Eppure tutto si è guastato per questa storia di WikiLeaks. Tra l'altro, curiosità interessante, Hillary dice che queste email sono state hackerate, sono state rubate da Vladimir Putin, dalla Russia, per favorire la corsa di Donald Trump. La cosa naturalmente non ha molta credibilità, però Donald Trump nel frattempo ne ha approfittato ed è subito intervenuto attaccando Hillary. Sentiamo. He has been gamed. It's a rigged system against him. Ecco, qui naturalmente Trump tira acqua al suo mulino, dice: povero Bernie Sanders, è stato davvero preso per il naso, quello che è successo è uno scandalo, questa volta all'interno stesso del suo partito. Io credo che la base di Bernie Sanders si identifichi, si riconosca più in quello che voglio fare io, perché io sono per proteggere i posti di lavoro americani, sono per la chiusura di accordi commerciali che hanno portato disoccupazione, quindi invito la base di Bernie Sanders a vendicarsi e a votare per me. Ecco, non credo che poi questo succederà, però devo dire il danno in questo momento è piuttosto forte. L'unico vantaggio per Hillary è che la corsa è ancora lunga, perché si guarda comunque alle elezioni in novembre. Ma vediamo un paio di esempi di queste email, tra virgolette, negative contro Bernie Sanders. Ecco, per esempio qui in una di queste email Brad Marshall, che è un membro del Partito Democratico, attacca l'eredità culturale ebraica di Sanders, suggerisce di descriverlo come un ateo, e una scelta, dice, che potrebbe garantire parecchi punti di vantaggio nella fase finale delle primarie. E invece la Wasserman Schultz, il presidente del partito, che dovrebbe essere assolutamente imparziale, si riferisce al capo della campagna di Sanders, al manager della campagna di Sanders, Jeff Weaver, e lo definisce damn liar, un maledetto bugiardo e anche un asino. Su Sanders dice: non è mai stato un membro del Partito Democratico, non capisce nemmeno quello che facciamo. Ecco, sono dimostrazioni di parzialità che, guarda caso, arrivano, esplodono, vengono rese note proprio alla vigilia della convention democratica, rovinano la festa di Hillary Clinton. E devo dire che qualche sospetto su questa operazione di hackeraggio che arrivi da qualcuno che voglia avvantaggiare Trump, beh, in qualche modo il sospetto c'è. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno di Brotherhood of Man, non posso che proporvi United We Stand, Divided We Fall. Cerchiamo l'unità perché se ci dividiamo saremo travolti. Credo che è quello che stia pensando in questi giorni, in queste ore, Hillary Clinton. Filadelfia è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!